Ed eccoci tornati su Radio Bawalla, qui dallo Stadio della Canoa, live e anche su www.radiobawalla.net in streaming su internet. Allora, sono sempre Davide in compagnia di Marco e abbiamo con noi un altro ospite eccezionale della giornata. Abbiamo con noi, eccezionale, bene sì, abbiamo con noi il partecipante, un partecipante della gara di MTB Orienteering, Giovanni, giusto? Giustissimo. Ciao Giovanni. Allora, come stai? Come stai? Che dire, provato. Ti vedo un po' provato, ti vedo sì, sì. Un po' stanco, sudorato, come... Sì, sì, la fortuna della radio è che non si sentono gli odori, quindi esatto, è un grosso... Esatto, no, è stato bello vedervi arrivare con la bicicletta dalla gara di MTB. Innanzitutto, come è andata proprio la vostra prestazione come gruppo? Voi eravate un piccolo gruppo di persone? Noi eravamo due gruppi, due famiglie, che eravamo convinti di essere delle persone mature e ormai orientate. Abbiamo scoperto di essere disorientati, che dire. Avete fatto una gara di MTB Disorienteering. Disorienteering, assolutamente. Quindi detto questo, vi siete persi un paio di volte, però è anche questo l'orienteering: se non ti perdi non ti puoi orientare. Esatto, sai di essere orientato quando ti perdi perché sei disorientato. È chiaro, è molto chiaro. Così era la gara, così era. Bene, bene, bene. Quindi intanto qui succede di tutto, qui alla postazione di Radio Bawalla arrivano delle torte per dei compleanni, succede di tutto. Com'era il percorso? Com'era? Allora, il percorso sì, era molto articolato, non so qual era il percorso migliore. Quello che abbiamo fatto noi, c'erano dei tratti di asfaltato, alcune parti... L'autostrada non andava presa, esatto. Forse vi siete persi. No, no, lì ce ne siamo accorti perché c'era un cartello vietato l'accesso alle biciclette, uomini a piedi, persone con carrette. Ecco, lì abbiamo capito che eravamo disorientati e siamo tornati indietro sui nostri passi. Ho capito. Comunque, beh, nel complesso una bella gara. Quanto ci avete messo? Allora, quanto ci abbiamo messo? Chiedo anche all'altro mio partecipante che era dotato di cronometro. È vero? Un'ora, ciao San Diego, 1:25, che non so se è buono o non è buono. Mi sembra che, no, mi sembra abbastanza decente. Mi sembra che il miglior tempo assoluto della vostra categoria fosse 40 minuti. Ma stiamo parlando del top, cioè stiamo sì, parlando infatti, di chi c'era anche uno che hanno trovato i resti in un deserto e ci ha messo di più rispetto a noi, no? Beh, mi chiaro. Sembra di più, sì, sì. Bene, benissimo. Detto questo, ci ascoltiamo un altro brano in Creative Commons e poi dopo ritorniamo a parlare di sport outdoor. Perfetto, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Questi sono i Glass Waves con The City. The City.